Stella di Davide, vigila per noi, figli tuoi. Fiore di essere, vivi per noi, figli tuoi. Stirpe da bravo, canta con noi, figli tuoi. Madre d'Etiopia, vieni con noi. Preziosa, vivi per noi, figli tuoi. Tempio del Santo, canta con noi, figli tuoi. Tenda gloriosa, vieni con noi, figli tuoi. Dai la la la la la, dai la la la la la. Stella di Davide, dai la la la la la. Stella del cielo, vigila per noi, figli tuoi. Figlia di Sio, vivi per noi, figli tuoi. Tremolo divino, canta con noi, figli tuoi. Bellezza arcana, canta con noi, figli tuoi. Madre di Dio, vieni